Il complimento migliore che può essere fatto a Radio 24 è definirla una radio di servizio pubblico e noi ci sforziamo di esserlo, una radio che fa informazione e contribuisce a risolvere almeno qualche problema concreto. Per questo l'impegno di Radio 24 nei momenti difficili del paese e delle comunità locali è fuori discussione. Lo è stato, per esempio, con l'iniziativa Disperati Mai contro gli effetti drammatici della grande crisi e in occasione della alluvione nel Vicentino, lo è oggi in Emilia, una zona colpita duramente dal terremoto del maggio scorso. In queste circostanze è opportuno tenere accesi i riflettori sulle iniziative in corso affinché abbiano sempre maggiore efficacia, ma anche sulle promesse non mantenute e sui nodi irrisolti. Lo facciamo tutti i giorni, ma abbiamo deciso di moltiplicare gli sforzi dedicando un'intera settimana, da domani in poi, all'Emilia che riparte 6 mesi dopo il terremoto.